Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno. Quando si pensa al Made in Italy, la propaganda mediatica è tale che viene subito associato a moda, stile, design e proprio, o peggio, anche a tutta quella valanga mediatica che è diventata assolutamente insopportabile, insostenibile sui cuochi, sull'alimentare, sul food e anche su Italy. Ecco, il Made in Italy non è solo questo e se si dovesse basare su questo, l'Italia diventerebbe un paese del terzo mondo, un paese di coltivatori agricoli, di operai di cucine mal pagate e di persone che rifanno le stanze a 800 euro. Questo è il caso che ogni tanto qualcuno, andando in controcorrente, lo dica e lo dico io. Vox clamans in deserto, ma non importa. Almeno gli ascoltatori di questa trasmissione che ci stanno a sentire, che sono sempre più numerosi, condividono. Il vero Made in Italy, il Made in Italy che rappresenta la spina dorsale dell'economia italiana è la meccanica. Noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa e il settimo al mondo. La meccanica vale molto di più di moda, stile, design e tutte quelle robe lì che non se ne possono più. Messo il valore della meccanica è superiore sia in termini assoluto e anche superiore per tutto il genere di servizi, di IT e di altre cose che muove. Tra l'altro la nostra tradizione meccanica risale anche al XVI secolo, risale alle botteghe degli artigiani. C'era un saggio che si chiamava Artigiani Digitali che ce lo spiega. Per esempio, proprio in provincia di Brescia c'è un distretto che faceva rubinetti e che ha radici antichissime e che è partito anche quello dal 1700 e oggi a Lumezzane ha una leadership mondiale. Poi dai rubinetti siamo arrivati a tutta una serie di componentistica elettronica, elettrica, meccatronica per le cucine e per un sacco di altre applicazioni. Qui oggi con noi c'è un esponente di questi distretti, il dottor Alberto Bartoli di Sabaf. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sabaf fa componenti per apparecchi domestici a gas e, pensate, leader mondiale nella componentistica per la cottura a gas. E continua a crescere anno su anno, anche se quest'anno c'è stata una piccola flessione per alcuni mercati del terzo mondo, continua a crescere e a salire. Allora, che cosa vuol dire essere leader mondiali in un settore come questo? Essere leader mondiali in un settore come quello della cottura significa declinare prodotti diversi per luoghi diversi. Noi abbiamo cominciato a farlo soprattutto dopo la crisi del 2008-2009. Siamo andati nel resto del mondo e abbiamo capito che non potevamo esportare solo rubinetti e bruciatori che vendevamo in Italia e in Europa e abbiamo cominciato quindi a produrre rubinetti e bruciatori adatti alle esigenze degli altri paesi. Abbiamo bruciatori speciali per la Cina, bruciatori speciali per l'India, rubinetti particolari per il Sud America e così via. Voi avete appena fatto un'acquisizione, no? Sì. Di un'azienda che si chiama ARC. E sembra un po' il primo passo, avete intenzione di fare ulteriori acquisizioni, tra l'altro voi siete anche quotati in borsa. Sì, siamo quotati in borsa dal 1998 e siamo nel segmento Star dal 2000. E adesso magari non c'è un dossier subito pronto, però c'è uno sguardo molto interessato a tutti i possibili dossier, corretto? È vero, è corretto. ARC è stata la prima acquisizione dopo molti anni, abbiamo fatto un'acquisizione nel 99, un'altra azienda qui di Milano che produceva e produce tuttora cerniere per l'apertura delle porte, dei forni e delle lavatrici. ARC invece è una piccola diversificazione, nel senso che abbiamo invaso un territorio vicino, quello della cottura professionale. Vabbè, ce lo dirà dopo. Intanto ci dobbiamo interrompere per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Alberto Bartoli di Sabaf, che è un'azienda che, dicevamo prima, è leader mondiale nella componentistica per apparecchi domestici a gas. Allora, parlavamo di acquisizioni, lei ci raccontava l'acquisizione di ARC, però mi diceva che potrebbe essere la prima di una serie? Sì, siamo interessati a ampliare un po' la gamma della nostra produzione e siccome abbiamo sviluppato negli ultimi 60 anni un know-how nella combustione a gas, siamo interessati a tutto ciò che riguarda appunto la combustione. Adesso abbiamo acquisito questa realtà padovana che produce bruciatori per la cottura professionale, quindi per ristoranti. Sì, sì, certo, l'abbiamo detto. E adesso invece siamo interessati anche a allargare il nostro giro. Il riscaldamento potrebbe essere un altro settore in cui provare ad entrare. Ecco, e comunque voi fate anche investimenti per crescita interna con circa il 10% di investimenti, giusto? Assolutamente, siamo penso tra le società quotate che investono di più. La nostra storia è caratterizzata da fortissimi investimenti. Operando nel settore del gas abbiamo bisogno di sicurezza. La sicurezza la garantiamo con una fortissima automazione, tra l'altro noi ci costruiamo al nostro interno gran parte delle macchine che poi utilizziamo nella produzione. Ah, questo è molto interessante. Comunque, sulla storia di Sabaf, sentite qua. Sabaf è un'azienda produttrice di componenti per apparecchi domestici per la cottura a gas. Ha circa 700 dipendenti e 5 sedi produttive distribuite tra Italia, Brasile, Turchia e Cina. Con un giro d'affari di circa 138 milioni di euro, è il leader mondiale nella componentistica per la cottura a gas. La società è stata fondata nel 1949 da Giuseppe Saleri, ancora oggi presidente, a Lumezzane, in provincia di Brescia, zona da sempre leader nella produzione di rubinetti. Sabaf è l'acronimo di Battista Saleri e figli. L'attività, infatti, è stata creata da Giuseppe Saleri con il padre Battista e i fratelli. Inizialmente Sabaf produceva rubinetteria per il settore agricolo. Sarà negli anni 60 che Sabaf si specializzerà nella produzione di rubinetti per apparecchi di cottura a gas, cavalcando la diffusione universale degli elettrodomestici che si verifica in quegli anni di boom economico. Tra gli anni 70 e gli 80, Sabaf avvia la produzione di termostati a gas, introduce il sistema di sicurezza termoelettrica e integra la gamma di prodotti con i bruciatori. Nel 2001 Sabaf acquisisce Faringosi Inges, azienda italiana specializzata nella produzione di cerniere per elettrodomestici. L'azienda investe circa il 3% del suo fatturato annuo in ricerca e sviluppo. Un ulteriore 7% viene investito in macchinari e tecnologie. La progettazione e lo sviluppo di nuovi prodotti risponde all'esigenza di creare componenti sempre più sicuri e che, sia in fase di produzione che di utilizzo, permettano di ridurre l'inquinamento atmosferico e di massimizzare il risparmio di risorse energetiche. Caratterizzata da una forte integrazione verticale, l'azienda produce internamente anche i macchinari necessari alla lavorazione e all'assemblaggio dei propri prodotti. Dal 1998 Sabaf è quotata alla Borsa di Milano e dal 2001 è entrata a far parte del segmento titoli con alti requisiti, STAR. Ecco, stavamo parlando appunto del Industry 4.0, che è uno degli argomenti che in questa trasmissione continuiamo a sottolineare. Per voi che cosa significa? Ma significa proseguire un percorso che abbiamo già intrapreso. Evidentemente i robot non li introduciamo adesso perché c'è la fabbrica 4.0, li abbiamo cominciato a introdurre già 10 anni fa. I nostri processi parlano con i nostri prodotti. Il costruire le macchine all'interno significa questo, stabilire dei canali multidirezionali tra prodotto e processo. Evidentemente adesso quello che stiamo facendo è investire in qualcosa di più digitale per far parlare le macchine tra di loro. Ormai il mondo dell'industria è soggetto a una tale variabilità che devi essere pronto a rispondere con un processo produttivo estremamente flessibile. Ecco, voi tra l'altro praticamente avete anche molti stabilimenti all'estero nei quali riproducete il modello che avete creato in Italia, giusto? È corretto, noi abbiamo stabilimenti in Brasile, in Turchia e in Cina. Non siamo andati in questi paesi per sfruttare il costo del lavoro più basso. Abbiamo esportato il nostro modello industriale, che è un modello basato essenzialmente sull'automazione. Non ci interessa andare in Cina per sfruttare il costo del lavoro cinese. Ci interessa andare quel in Cina per vendere i bruciatori e i componenti ci interessa al mercato quel cinese. Mercato. E quello lo possiamo fare esclusivamente portando il nostro modello basato sull'automazione, perché il costo del lavoro cinese sta comunque aumentando. Peraltro una curiosità è il fatto che i cinesi, nonostante il loro costo in termini relativi sia comunque inferiore, sono tra i maggiori investitori in robotica e automazione. Sono molto sensibili a questo argomento. Ma certamente, cioè, i paesi manifatturieri nel mondo quali sono? La Germania, l'Italia e la Cina. Sono questi. E questi stanno investendo fortemente nella robotica, perché è la manifattura comunque il centro. E se tu vuoi migliorare la manifattura, è chiaro ed evidente che devi farlo puntando su questi. Comunque voi avete investito molto nell'Industry 4.0 perché i vostri clienti vogliono il just in time. Vogliono assolutamente il just in time. I clienti strutturati come i grandi gruppi di elettrodomestici europei vogliono just in time, vogliono consegne nel giorno per giorno. Ma dobbiamo essere pronti a rispondere alle sfide anche dei paesi in via di sviluppo, che hanno invece variabilità di ordinativi all'interno di un singolo mese che certe volte ci scompaginano. E infatti il problema è che i paesi in via di sviluppo, da un lato, per voi sono un'opportunità anche di fare co-branding, se vuole dopo ce lo dirà, ma sono anche un rischio perché sono piuttosto ondivaghi nelle loro ordinazioni. Assolutamente, e purtroppo quest'anno ad esempio stiamo subendo il caso dell'Egitto, che è un paese che l'anno scorso aveva avuto un andamento assolutamente positivo. Quest'anno l'andamento non è così positivo perché è colpito da fattori geopolitici, non hanno più valuta e non possono pagare le importazioni. E questo può succedere anche altre volte. E questo può succedere. Dunque l'Industry 4.0, con l'estrema flessibilità che vi garantisce, può essere una risposta. Assolutamente. Alla fine l'Industry 4.0 cosa significa? Significa produrre sempre meglio, a qualità più elevata, in tempi più ristretti. Non è che lo facciamo perché è un manifesto, lo facciamo perché il mercato ci obbliga a farlo. Anche se non ci fossero gli incentivi fiscali, lo faremo comunque. Gli incentivi fiscali comunque sono sempre utili. Aiutano senz'altro. Senta, poi, siccome voi siete proprio il massimo della qualità del Made in Italy in queste cose, magari non riuscite a fare co-branding, a far emergere il vostro brand dove ci sono cucine di alta gamma e di marchi affermati ormai da 100 anni, però nei paesi in via di sviluppo, che sono il vostro futuro, c'è un co-branding, per cui nella cucina il marchio Sabaf viene fuori. Assolutamente, ci sono due casi eclatanti. Uno è l'India, dove stiamo cominciando a entrare da poco tempo con un bruciatore speciale pensato per quel paese. Uno dei nostri clienti principali ha addirittura fatto una campagna in televisione utilizzando anche il nostro nome, il nostro marchio, perché evidentemente per rimarcare la differenza con la produzione locale. La stessa cosa in Iran, dove abbiamo da tempo una posizione di grande, quasi di monopolio, direi, comunque di leadership in quel paese, e anche lì i produttori iraniani ci utilizzano per rimarcare la differenza con gli altri competitori. Senta, una battuta veloce, per voi che cosa significa stare a Lumezzane? Significa ci siamo trasferiti a Ospitaletto da qualche anno. Ah, e questo è già un salto. È un salto, sì, ci siamo spostati di 20 km, ma significa comunque avere l'origine nella vera industria italiana, cioè quella che investe e che cerca di progredire sempre. È là dove c'è storia. La devo salutare, la ringrazio, dottor Bartoli. Grazie a lei, buona giornata. Arrivederci a tutti gli ascoltatori, anzi a risentirci sabato prossimo, ore 14.